Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Bravi, bravissimi, questo applauso è per voi che come ogni giorno state restate con la vostra salutare ossessione quotidiana, la Nico, come dicono qui a Milano. Grazie, grazie di cuore, siete sempre i benvenuti. A proposito, voi quando applaudite? Battete la destra sulla sinistra o la sinistra sulla destra? Oppure battete le mani in modo simmetrico, verticale? Provo con un'altra domanda perché magari non avete applaudito di recente. Quando incrociate le dita delle due mani, qual è il primo pollice che vedete? Destro o sinistro? E quando incrociate le braccia, quale mano esce? Provate, tra poco scopriremo la ragione di queste differenze o preferenze. Nel frattempo saluto con una bella stretta di mano il dottor Giorgio Pivato, responsabile di chirurgia della mano di Humanitas. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Dottor Pivato, ma quando lei stringe la mano, una persona le stringe la mano in modo vigoroso, un pochino più mollino, lei che cosa pensa da chirurgo della mano? Allora, da chirurgo della mano ci dà delle informazioni sicuramente sullo stato di salute della mano, perché ti rendi conto da una stretta vigorosa che è una mano in salute e di solito però caratterizza più una stretta maschile, sì. Una stretta che invece sguscia. Che sguscia, sudata e quindi potrebbe fare molto caldo. Sicuramente quando sono coinvolte da processi di tipo artrosico, comunque degenerativo, le mani, il paziente vedi che ha una timidezza quasi nel dare la mano, perché sicuramente quella stretta è una stretta che risulta essere dolorosa e tante volte è proprio il paziente che ti anticipa, ti dica non stringa troppo, ma ormai facendo questo lavoro devo dirle che un pochino mi sono abituato a, certo, a non stringere troppo forte, almeno in ambiente professionale. Quindi lei ha la stretta di mano perfetta, né troppo né troppo poco. Allora, naturalmente con il dottor Pivato parleremo delle nostre mani, le mani che applaudono, stringono, accarezzano, afferrano, le usiamo di continuo non solo per svolgere i gesti più semplici della nostra quotidianità, ma anche per rafforzare il significato delle nostre parole, perché noi siamo un popolo di instancabili gesticolatori. Così, dottor Pivato, oltre a spiegarci meglio, facciamo anche un po' di stretching. Le nostre dita ci guadagnano o no? Ci guadagnano sicuramente, perché è esperienza comune di tutti noi quando ci svegliamo al mattino, per esempio, dire abbiamo le mani un po' rigide, ci impieghiamo un pochettino a farle, a rimetterle in moto, e allora si dice dobbiamo fare un po' di apri e chiudi un po' di volte, poi durante la giornata va meglio. E la spiegazione è molto semplice: siamo stati fermi per tante ore durante le notti, la notte, magari assumendo anche delle posture sbagliate, e questo fa sì che gli spazi tra un ossicino e l'altro si riducano un pochettino, e da un punto di vista soggettivo quindi si abbia un po' la percezione di avere delle mani rigide. Lei ha detto una cosa molto interessante sull'utilizzo delle mani, che sono il nostro strumento più importante, il nostro strumento principe. Effettivamente aggiungerei una considerazione: se ci pensiamo, dopo la faccia sono la parte che è la più esposta, la parte che tendiamo, a meno che non si vada a sciare o d'inverno quando fa molto freddo, è la parte del nostro corpo che è sempre scoperta e che quindi dà delle informazioni su di noi che altrimenti parti più nascoste possono non dare. E certo, racconta tutto: gli anni, il modo in cui viviamo, pensiamo ad esempio il lavoro anche che svolgiamo, pensiamo ad esempio alle unghie, alle dita ingiallite del fumatore. Pensiamo ai calli sul palmi della mano, pensiamo anche alle unghie un po' rosicchiate, no? Che danno l'idea della persona che il rosicchiatore un po' nervoso, un po' nervosetto, oppure all'unghia lunga del mignolo, che era considerato un simbolo, un segno di quasi di nobiltà, perché l'unghia lunga del mignolo tenuta pulita voleva dire che uno poteva permettersi di tenere un'unghia lunga e di non averla sporca perché non faceva un lavoro manuale. Oggi c'è un po' una riscoperta del lavoro manuale, che è diventato un lavoro che esprime il pensiero, cioè senza le nostre mani noi non saremmo in grado di tradurre in cose, in fatti, i nostri pensieri. Quindi si è passati da una fase in cui il pensiero era considerato assolutamente prioritario rispetto ai lavori manuali, ad oggi, dove invece il lavoro manuale è considerato l'espressione più pura e l'espressione più importante del nostro pensiero, proprio perché traduce in pratica ciò che idealizziamo. Dottor Pivato, con lei oggi osserveremo le nostre mani, le chiederemo naturalmente anche di suggerirci dei test per misurare un po' la salute delle nostre mani. Non certo non vogliamo farci autodiagnosi, ma così intanto per capire come stanno. E come sempre chiederò anche a lei, come faccio agli esperti che vengono, partecipano alle nostre puntate, di imprestarci un po' il suo occhio clinico. E l'occhio mi cade sulle dita, perché tutti noi sappiamo che possono cambiare forma. Chi porta la fede, chi porta gli anelli, avrà notato che con il tempo diventa sempre più difficile, no, sfilarli. Vero è che anche le dita si arrotondano, perché se aumentiamo di peso anche le nostre dita ingrassano, ma non è di quello che voglio parlare, dottore. Non è un problema di rotondità, è proprio un cambiamento di forma. Allora, assolutamente d'accordo. Il sono cambiamento... ingrassato, avevo anche le mani cicce. Esatto, no? Ma ecco. Allora, le mani cicce le possiamo avere perché ingrassiamo o le possiamo avere perché si gonfiano, no? Sì. Esperienza tipica è, dopo un lungo viaggio in aereo, per esempio, avere oltre ai piedi anche le mani gonfie. E questo perché, tenendole ferme, non attiviamo quella che chiamiamo la pompa muscolare, cioè quella contrazione da parte dei muscoli che spingono indietro il sangue che viene mandato dal cuore verso la periferia. Però lei giustamente si riferiva a un altro tipo di deformità, quindi non una deformità regolare dovuta o a un gonfiore o a un aumento del peso, ma a un cambio di forma di quelle che sono volgarmente chiamate le nocche. Le nocche, ecco. Che sono in realtà poi si chiamano in termine scientifico le articolazioni interfalangee delle dita. Queste possono subire delle modificazioni di forma e di volume in relazione a tanti fattori. Direi che i due principali sono sicuramente l'artrosi, che ne modifica il profilo, ma anche tanti eventi di tipo traumatico, come le distorsioni o le fratture, che ne possono cambiare la forma, rendendo di fatto il dito diverso da come ce l'ha fatto la mamma. Insomma, la classica partita di beach volley. La partita di beach volley, la partita di basket, tutti gli sport di contatto. Se pensiamo che abbiamo delle dita che sono come degli stuzzicadenti, sì, pensiamo che un passaggio una schiacciata in un campo di beach volley o a pallavolo può raggiungere i 100 km all'ora, lo moltiplichiamo per il peso del pallone, capiamo a quale energia le nostre dita sono sottoposte, a quale insulto sono sottoposte. Quindi, se non correttamente attrezzati, se non correttamente informati, e questo infatti lo vediamo paradossalmente più spesso negli amatori rispetto che ai professionisti, possiamo andare incontro a tutta una serie di situazioni di tipo traumatico, dove le più frequenti, prima ancora che le fratture, sono proprio le distorsioni, quindi un problema a livello legamentoso. Quindi occhio a queste partitelle, questo è il periodo, è un classico, ci si ritrova in spiaggia con gli amici, partita, ma andrà bene, anche quest'anno andrà bene, le nostre nocche saranno salde. Quando incrociate le dita delle due mani, qual è il primo pollice che vedete, destro o sinistro? E quando incrociate le braccia, quale mano esce? Ma in linea con noi per svelarci la risposta è il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno e bentrovata. Pollice sinistro per me, perché? È perché lei mancina come me, perché l'arto dominante mette il sigillo e sta sopra. Quando incrociamo le mani, il pollice che è posto superiormente è quello della mano dominante. La stessa cosa quando noi mettiamo le braccia conserte e quando applaudiamo tendiamo a tenere come mano passiva, e quindi la mano che batte meno, anzi che viene picchiata, la mano non dominante. Quindi la mano e il pollice che dominano stanno sopra, come un sigillo che si convenga. Professor Barbanti, a proposito di mano, non apriamo la parentesi sui mancini perché vinciamo facile, vero professore? Certo, nettamente. Ecco, dedicheremo una puntata ad hoc. Ma c'è una relazione molto stretta tra mano e cervello. In questa è in parte la ragione per cui i lavori manuali vengono sempre più suggeriti per migliorare le performance cerebrali. Anche il dottor Pivato, che è qui in studio con me, anticipava anche in parte questo aspetto. C'è una grande mano dentro il nostro cervello, la rappresentazione sulla corteccia cerebrale della mano è gigantesca. Se ci facciamo massaggiare una mano ci rilassa molto di più che se facciamo massaggiare un polpaccio, anche il piede è rilassante, ma la mano lo è in maniera particolare anche in tanta parte della medicina orientale. La mano serve per lavorare ma per fare i gesti, la mano è uno straordinario elemento di comunicazione, pensiamo pollice verso, ok, pensiamo il saluto. Ed è quindi un formidabile elemento comunicativo, è la base della lingua dei segni. La mano è fondamentale anche per esprimersi musicalmente ed è irripetibile per l'effetto del tatto. Il tatto è uno dei nostri sensi e viene sostanzialmente così esperito, provato attraverso la mano. Una carezza, vogliamo toccar con mano. La mano è piena di movimenti ed è capace di fare, pensiamo, il virtuosismo di un musicista e di coordinazione, pensiamo al prestigiatore, piena di sensibilità. Io mi metto una mano in tasca e riesco a capire dalla zigrinatura di che tipo di moneta sia, ma anche ricca di sistema nervoso autonomico. Le mani che sudano sono la testimonianza della nostra emotività. Mano vuole anche dire malattia neurologica. Alcune malattie neurologiche compaiono prima nella mano, alcuni disturbi, non malattie. Pensiamo l'ansia, la mano che suda, la mano che trema. Ma la sclerosi laterale amiotrofica spesso compare come un'atrofia del primo interosseo, o il Parkinson, tremore della mano. E infine, nell'ictus, la mano, proprio perché è così complessa, tende a recuperare più lentamente rispetto alla gamba e al braccio e molto occorre riabilitarla perché agendo dalla periferia anche il cervello si muove, quindi avere una mano perfetta è fondamentale per avere un cervello perfetto. Professor Barbanti, la ringrazio per essere stato con noi, vede, degno di un mancino. Grazie a tutti voi. Buona giornata, a presto. Se chiedi un aiuto, ti tendo la mano. Dottor Pivato, allora adesso ascoltiamole queste mani perché hanno il loro linguaggio. A volte prudono, mi fa venire dei nervi, mi prudono le mani, si dice a proposito di collegamento, no? A volte, quindi raccontano anche delle emozioni, a volte formicolano e a un chirurgo della mano questo sintomo suona come una richiesta di aiuto, di attenzione, ma attenzione, a proposito, è importante capire dove si manifesta il formicolio e quando, è corretto? Sì, mi trovo un po' in imbarazzo adesso a parlare dopo il professor Barbanti perché perché sì, è un neurologo sì. E noi nei confronti dei neurologi abbiamo sempre una sorta di sacro rispetto perché veramente? Pensiamo e loro sono quelli sì. Che sanno veramente le e cose. Voi che noi fate. Noi quelli che facciamo, ma lo facciamo spesso e volentieri su loro indicazione, quindi però soprattutto vede, se si parla il braccio. Ecco, mettiamola così, va bene, quando si parla di quando si parla di formiche si entra in un capitolo dove i nervi sono i protagonisti. Io quando spiego al paziente lo aiuto a fare quella che chiamiamo diagnosi differenziale, cioè di cercare di dare un nome ai problemi. Ecco, mi piace. tutti i disturbi, tutti i problemi che sono legati a quando si fa qualcosa, a un'azione, quelli che noi chiamiamo disturbi funzionali, sono dei problemi che riguardano di solito le ossa, le articolazioni o i tendini. Invece i disturbi di tipo spontaneo, cioè quando stiamo fermi, tipicamente durante le ore notturne, tipo il formicolio, sono dei disturbi di tipo neurologico, cioè che riguardano i nervi. Lei ha detto, qua ci ha aiutato a fare una bella distinzione. Lei ha detto una cosa molto interessante prima, dicendo: ma lei è dipende... molto gentile, la seconda che dico oggi. Non no, le dice oggi tutte, ho cambiato ma un a volte colazione, ma perché forse. mi ruba quello che vorrei dire. E quindi mi mette un po' in difficoltà, perché ha detto una cosa importantissima, citando il fatto che a seconda del formicolio, delle dita coinvolte dal formicolio, noi ci orientiamo su una diagnosi piuttosto che un'altra. Questo perché i nervi del nostro braccio, che sono fondamentalmente tre, fanno tre cose diverse. Ce n'è uno nella fattispecie che è quello che si chiama nervo mediano, che è quello che dà la sensibilità alle prime tre dita della mano e a un pezzettino dell'anulare, che è quello coinvolto nella sindrome del tunnel carpale. Ed è che è la compressione nervosa più frequente nella popolazione. Oggi si conta che quasi il 45% della popolazione sopra i 50 anni di sesso femminile soffra di questo tipo di disturbo. Estremamente interessante è come il paziente ti racconti questo tipo di disagio in maniera assolutamente diversa. Io posso visitare 20 persone in una giornata che hanno il tunnel carpale e le dico che difficilmente troverò due che me lo raccontano uguale. Perché noi donne siamo creative. Siete creative, e raccontiamo anche. Ma si chiama sindrome proprio perché è un insieme di sintomi. E quindi c'è il paziente che ti dice che ha caldo, c'è il paziente che ti dice che ha freddo, c'è il paziente che ti dice che ha le formiche, quello che ha male, c'è quello che non sente, c'è quello che sente troppo, c'è quello che ha la mano sudata e quello che gli suda meno di quello che gli sudava prima. Sono tutti sintomi che comunque possono coinvolgere la sfera neurologica e, come diceva prima, possono costituire un campanello d'allarme e quindi meritevole di indagine. Ci sono delle novità nel trattamento di questo disturbo, perché la chirurgia della mano diventa sempre più gentile. È corretto usare questo termine? Sì, è assolutamente corretto, perché soprattutto laddove noi non siamo stati capaci, parlando per esempio di sindrome del canale carpale, non siamo stati capaci di individuarne le cause. Mi creda che c'è una distribuzione assolutamente orizzontale per quanto riguarda la sindrome del tunnel carpale. Ci si prova in tutti i modi a dire che è colpa della tastiera, che è colpa del telefonino, che è colpa del lavoro pesante. In realtà non vi è alcuna evidenza scientifica sull'aumento dell'incidenza di questo tipo di patologia. Allora, resisi conto che, non potendo capire la causa, non riuscivi a prevenirla, si è cercato di trovare il modo meno invasivo o più gentile possibile per cercare di curarla. E ce l'avete fatta. Oggi, grazie all'endoscopia, siamo in grado di operare anche entrambe le mani contemporaneamente. Tenga conto che più nel 90% dei casi la patologia è bilaterale, così un po' come succede per la cataratta, per intenderci, e con un intervento che dura un minuto e mezzo per mano, fatto in regime ambulatoriale, senza dover neanche dare i punti, il paziente è in grado di tornare a casa sua guidando la sua macchina subito dopo l'intervento, quindi senza nessuna limitazione funzionale. Quello che gli spieghiamo semplicemente è che non bagna la medicazione per una decina di giorni, tempo che guarisca la piccola feritina. E la cosa veramente importante è che loro dalla sera stessa dell'intervento non percepiscono più i sintomi che sentivano prima. Questo perché la sindrome del tunnel carpale è un problema meccanico, cioè c'è un qualche cosa che schiaccia il nervo. Nel momento in cui tu liberi e crei uno spazio maggiore a disposizione del nervo, il formicolio va via, esattamente come succede quando scavalliamo le gambe perché ci si è informicolato il piede. Il problema è esattamente lo stesso. Quando noi cavalliamo le gambe col ginocchio sotto, schiacciamo le arterie del ginocchio sopra, non arriva più il sangue al piede e il piede si informicola. Certo. Noi scavalliamo le gambe, sentiamo tutto il sangue che ritorna al piede e le formiche vanno via. Questo succede quando fai l'intervento per il tunnel carpale. Scavalli praticamente le mani in modo tale che ritorna il sangue al nervo. Bellissimo, mi sembra magnifico il sapere che in pochi minuti questo problema, che disturba anche il sonno di molte donne, possa essere risolto così brillantemente. Noi donne abbiamo il problema del tunnel carpale. C'è una patologia della mano che invece colpisce, un po' per par condicio, perché sennò le abbiamo tutte noi, gli uomini? Mi viene in mente, parlando per frequenza, di questa malattia che ha un nome un po' strano, ma perché strano era il nome di chi l'ha descritta per primo, che è questo morbo di Dupuytren, che si caratterizza per un ispessimento di una fascia che abbiamo sotto la pelle del palmo delle mani e sotto la pianta dei piedi, che è una fascia che serve di fatto a tenere attaccata la pelle agli strati profondi. Se ci fate caso, in tutto il vostro corpo voi riuscite, se vi pizzicottate la pelle, a sollevarla in pieghe. Sì. Sul palmo della mano non ci riuscite, proprio perché c'è questa membrana che lega. Vedi, siamo qua tutti che proviamo, è vero. Esiste una malattia specifica che si chiama fibromatosi palmare o morbo di Dupuytren, per cui questa membrana decide di spessirsi. È una patologia di tipo ereditario, quindi è scritta nel nostro DNA. Anche in questo caso noi non sappiamo perché a un certo punto della vita decida di manifestarsi. Di fatto, ispessendosi, provoca una progressiva retrazione delle dita che non riescono più ad aprirsi bene. Mm-hmm. Una cosa interessante è che conosciamo una distribuzione geografica molto precisa di questa patologia. Più ci spostiamo verso nord e più questa malattia è rappresentata. Pensi che nei paesi scandinavi più del 35% della popolazione presenta questo tipo di disturbo. Per riallacciarci al rapporto uomo-donna, il 75% di pazienti che hanno questo tipo di malattia sono uomini, perché il gene si trasmette con modalità dominanti nel maschio e recessiva nella femmina. Il tunnel carpale, pur non conoscendone le cause, mi sembra che le abbiate risolto brillantemente. Per il Dupuytren siete arrivati ad una soluzione, ad un'indicazione o che altro? Per il Dupuytren negli stadi non troppo avanzati, oggi abbiamo degli strumenti che non ci permettono di guarire la patologia, proprio perché, essendo una malattia di tipo ereditario, noi non siamo ancora capaci a cambiare il DNA. Quello che siamo capaci a fare però è risolvere la contrattura, cioè risolvere quell'atteggiamento in flessione del dito obbligata, che di fatto rende difficile anche solo se ci pensa a lavarsi la faccia, perché il dito ti va nell'occhio, e quindi o con interventi mini invasivi, anche solo con una puntura, si riesce a interrompere questo cordone ridando l'estensione del dito, oppure si può ricorrere a interventi più invasivi dove togli completamente questo tessuto ispessito, e sicuramente in questo caso sono meno frequenti le recidive. Grazie dottor Pivato per essere stato con noi, mi sono divertita molto. Anch'io. Vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 6 per iniziare la giornata insieme. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.